personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Sigla speciale, come il suo ideatore Luigi Speciale. E oggi per Sulle ali di carta voglio portarvi a conoscere la storia di un aristocratico, di un gran signore, di un uomo colto, un astronomo, un matematico, ma soprattutto un siciliano. E non è un caso che io sottolinei questo fatto. La Sicilia è una terra particolare, peraltro la terra dei miei nonni, è un mondo ricco di storia, di cultura, di bellezze naturali, però anche un mondo particolare, oppresso, sfruttato, dimenticato per secoli, forse anche un po' autoghettizzante. Però in questa meravigliosa isola sono nati dei personaggi indimenticabili, e fra tutti forse quello più conosciuto, quello emblematico per eccellenza, è quello del nostro protagonista, il Gattopardo. Don Fabrizio Corbera, principe di Salina, duca di Querceta, marchese di Donna Fugata, e il Gattopardo della nostra storia. Il padre di Don Fabrizio fa parte della migliore aristocrazia siciliana, la madre una nobildonna tedesca, e questo conferisce a lui una fisionomia particolare, perché è alto e biondo, ha la pelle chiarissima e ha gli occhi azzurri, un normanno insomma. E in Sicilia ce ne sono parecchi, e per nostra fortuna anche parecchie. Dalla parte della madre ha ereditato un certo rigore teutonico che, a differenza di molti altri nobili del suo tempo, lo porta in qualche modo a approfondire lo studio delle scienze, dell'astronomia. Insomma, non è il classico nobile nulla facente. Ci sono volumi importanti nella sua libreria, ci sono mappamondi, cannocchiali coi quali scruta il cielo e le stelle. È il ritratto di un gran signore, però avere censo e patrimonio non vuol dire avere anche la capacità di amministrarlo come si dovrebbe, anzi, insomma, la storia è piena di nobili decaduti. Ha ereditato molti immobili, dal palazzo Salina a Palermo, alla villa fuori città, fino a quello di Donna Fugata, nel feudo appunto di Donna Fugata, e tante altre proprietà, e soprattutto possiede la terra a perdita d'occhio, il latifondo. Latifondo è una parola latina che vuol dire vasto, latus e podere, fundus, e veniva usata per definire quelle proprietà immense e in genere gestite in maniera piuttosto negligente. E se a questo combiniamo anche l'aridità della terra e la pochezza tecnologica, arriviamo insomma a una situazione a volte desolante, nella quale il proprietario insomma non sa far fruttare i suoi possedimenti, addirittura in alcuni casi c'è solo lo sfruttamento del pascolo. E nell'Italia del Nord in quegli anni la terra era migliore, perché si erano sviluppati i comuni e quindi il latifondo aveva lasciato il posto alla mezzadria, che era una cosa diversa. Ma in Sicilia la cosa andò avanti, direi, fino alla metà del XX secolo, quando la Sicilia veniva ancora definita il granaio d'Italia. E proprio le distese immense di grano scandivano un paesaggio meraviglioso e terribile al tempo stesso, perché è la bellezza del paesaggio poi celava la miseria dei contadini che lavoravano per conto del Signore, senza garanzia, senza diritti, senza speranza, e così da secoli e secoli. Intorno ondeggiava la campagna funerea, gialla di stoppie, nera di restucce bruciate. Il lamento delle cicale riempiva il cielo. Era come il rantolo della Sicilia arsa che alla fine di agosto aspetta invano la pioggia. La strada, come la sua vita, si era svolta dapprima per pianure ridenti, si era inerpicata per scoscese montagne, aveva sgusciato attraverso gole minacciose per sfociare poi in interminabili ondulazioni di un solo colore, deserte come la disperazione. Il principe di Salina è un latifondista, però in qualche modo ci piace pensare che sia un po' meno accentuato nel suo caso lo squilibrio enorme che c'è tra il grande proprietario terriero e il misero contadino. Lui da un lato accetta con fatalismo la possibilità del cambiamento anche per una certa indolenza e pigrizia della Sicilia aristocratica, però non è uno di quelli che assommano alla tragedia del destino dei suoi contadini una crudeltà gratuita come spesso accadeva in quegli anni. Forse le nostre sono solo delle illusioni dovute alla simpatia nei confronti del nostro protagonista, ma noi cominciamo a immaginarcelo in un certo modo. Ma torniamo alla nostra storia, che inizia un giorno di maggio del 1860 con la recita del Rosario. Don Fabrizio è nella sua villa fuori Palermo, con lui la moglie Donna Maria Stella e i figli, che sono 7, anche se non ci sono tutti in quel momento. Di certo c'è Concetta, la maggiore, bella, altera, timida, e poi tutti gli altri. Ci sono tutti gli altri familiari riuniti per le preghiere, poi c'è padre Pirrone, il cappellano di famiglia, ma il rosario viene interrotto da una missiva importante. I 1000 di Garibaldi sono sbarcati a Marsala, è il comandante che vuole unire l'Italia, che minaccia il regno borbonico delle due Sicilie di Francesco, quel Franceschiello, è arrivato in Sicilia e la storia sta bussando alle porte dorate di Casa Salina. Eh sì, Garibaldi è arrivato a segnare il declino non solo dei Borboni, ma anche di una classe sociale, gli aristocratici. Salina lo sa e cerca di fare fronte agli eventi. È preoccupato per il nipote Tancredi Falconieri, che è il figlio della sorella, che è orfano, è stato allevato dalla famiglia Salina. Il principe lo considera un figlio e in lui ritrova se stesso. Quando la giovinezza gli regalava un futuro pieno di promesse, Tancredi è bello, intelligente, è scaltro, sa che deve legarsi a un carro vincente per sopravvivere e che se ci sarà un vincitore, lui sarà su quel carro. Sulle ali di carta. E all'indomani dello sbarco dei 1000 a Marsala, il principe di Salina riceve la visita del suo nipote prediletto Tancredi Falconieri, che gli comunica la decisione di unirsi ai Garibaldini. Succede spesso, cioè i figli dei ricchi, degli aristocratici, che si uniscono alla rivoluzione. Insomma, quando io andavo a scuola al liceo Berciera, così i figli dei ricchi erano quelli più impegnati politicamente, anche perché non avevano nessun problema nel perdere ore di scuola. Sentiamo questo dialogo importantissimo nella sua trasposizione cinematografica. Parto fra poco, zione. Parto fra un'ora. Sono venuto a salutarti. Perché? Dove vai? Non un duello? Sì, un gran duello, zione. Un duello con il re, con Franceschiello. Vado nelle montagne, a Figuzza. Si preparano grandi cose e io non voglio restare a casa. Dove del resto mi chiapperebbero subito. Sei pazzo a metterti con quelli? Sono mafiosi. Tutti imbroglioni. Un Falconeri sta con noi. Per il re. Per il re, certo. Ma quale re? L'hai detto tante volte pure tu. Se fosse ancora vivo il re Ferdinando. Ma Franceschiello, Dio guardi. No, zio, no. Perché? Tu credi che il piemontese, quello che chiamano il galantuomo, sarà molto meglio? Dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui. Credimi, zione. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 4 e 48. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. È una frase molto profonda. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Segniamocela, perché anche oggi ha un suo senso, eh? Tancredi è intelligente, però è anche furbo, è un realista, è uno sicuro di sé. Insomma, ce ne sono molti di Tancredi anche al giorno d'oggi, anche magari dagli scranni di Montecitorio. A differenza del principe, lui ha anche quel pragmatismo che gli permette di vedere le cose come stanno, di unirsi al carro giusto. Don Fabrizio ammira il nipote, invidia la sua energia, ma lui personalmente non nutre alcuna speranza nel cambiamento. per esempio padre Pierrone, il cappellano di famiglia, la pensa diversamente, e il prete teme un accordo tra monarchici e liberali in cui l'unica a perderci qualcosa sarebbe la Chiesa. Anche quando il principe analizza con realismo cinico l'immutabilità dell'assetto politico e sociale del paese, e il prete è perplesso. La frase del nipote risuona nelle orecchie dello zio, sa che è vera, e anche se il cambiamento potrebbe essere per lui una sciagura perché perderebbe i privilegi e la posizione, dentro di lui c'è quasi il fastidio di un inganno, di quell'immobilismo che è camuffato da vento di libertà. Ho fatto importanti scoperte politiche. Sapete che succede nel nostro paese? Niente succede, niente. Solo un'inavvertibile sostituzione di ceti. Il ceto medio non vuole distruggerci, ma vuole solo prendere il nostro posto, con le maniere più dolci, mettendoci magari in tasca qualche migliaio di ducati. E poi tutto può restare com'è. Capite, padre? Il nostro è il paese degli accomodamenti. In poche parole, voi signori vi mettete d'accordo con i liberali, addirittura con i massoni. A spese nostre, sì, a spese della Chiesa. E dopo? Chi sfamerà quella moltitudine di infelici che ancora oggi la Chiesa sostiene e guida? In un mondo in piena trasformazione, che dovremmo fare? Credete voi, padre, che semmai un giorno la Chiesa potesse salvarsi sacrificando noi, esiterebbe a farlo? Non esiterebbe. E farebbe bene. E qui è lo scontro, il confronto tra le classi, le vecchie classi privilegiate e le nuove emergenti. Il sistema è scosso dai progressi della campagna garibaldina, proseguono i disordini, la famiglia del principe si trasferisce a Donna Fugata, la colonna di carrozze si incammina con i bauli, con i servi nella campagna sicula, al loro arrivo vengono accolti dal paese in festa, dalla banda, dal sindaco Don Calogero Sedara, che è esattamente il contraltare del principe, un uomo rozzo, avaro, uno scaltro amministratore, uno non onesto, appunto la classe emergente che emerge a gomitate. Funzionava così del resto, perché i signori vivevano lontani dai possedimenti, quando avevano bisogno di soldi chiedevano all'amministratore il denaro e non si preoccupavano da dove questo arrivasse. In un bellissimo documentario del 1960 di Ugo Gregoretti sulla Sicilia del Gattopardo c'è uno di questi aristocratici personaggi che racconta come funzionava il sistema ai tempi in cui quando ci si vendeva dei possedimenti si parlava di voli di rondini. Guardi, questi voli di rondini che sono stati clamorosi alcuni, altri progressivi, questo declinare dei patrimoni delle più grandi famiglie palermitane sono avvenuti per cause molteplici. Ora io gliene accennerò qualcuna delle cause generali. Primo fra tutte, il grande tenore di vita e il lusso. Lusso che per quelle famiglie in quell'epoca non costituiva lusso, assolutamente. Si davano dei balli, moltissimi balli ogni famiglia dava ogni anno. Ma in questi balli, quando c'era un cotillon, si regalavano addirittura dei gioielli di gran valore. E quindi a ogni ballo di questo erano a rondine o due, tre che partivano, che volavano. Per esempio si tenevano dai 18 ai 30 camerieri. Carrozze se ne tenevano 30, 40 carrozze. Veda, queste famiglie avevano dei patrimoni immobiliari enormi, ma poca disponibilità di denaro liquido. E allora il denaro loro se lo procuravano per mezzo degli usurai. In genere chi prestava questo denaro era il soprastante, cioè l'amministratore dei vari feudi, ma prestava ad usura. Lui fingeva di non prestare, lui fingeva di ricorrere ad altri, ma in realtà era lui. Insomma, Sedara fa parte di questa schiera di amministratori poco scrupolosi che hanno accumulato grandi patrimoni, magari comprando pezzi dei possedimenti dei Salina. È il nuovo che avanza, la plebe che con astio prende il denaro degli aristocratici spingendoli verso la rovina. Anche se alla cena offerta da Don Fabrizio, tutti i presenti si fanno beffe di Sedara perché si presenta in frac, cioè sbaglia il tono della serata perché non sa vivere, ma il principe sa bene che quell'uomo sta rappresentando il futuro, anche se magari è vestito male, è inappropriato, ma sa che lui, Sedara, come tanti altri, sarà il curatore fallimentare di una classe sociale. E quella sera con Sedara c'è anche sua figlia Angelica, è bellissima. Tutti quando compare nel salone hanno un sussulto, abbagliata sorpresa viene descritta così la reazione delle persone, perché lei non è solo bella, perché il padre la manda a studiare a Firenze, perché grazie ai figli quella categoria di persone cerca di sopperire al suo complesso di inferiorità, cioè ho i soldi ma non so vivere, quindi i miei figli devono saper vivere con i miei soldi. E a un certo punto lei ride un po' sguaiatamente a un commento un po' impudente di Tancredi, e questo ci fa capire anche una spregiudicatezza che può spingere le donne verso obiettivi importanti, soprattutto in quel periodo. E dopo la prima cena di benvenuto a Donna Fugata con i Sedara, le intenzioni del bello e giovane Tancredi sono subito chiare. Dopo che in passato aveva flirtato con la cugina Concetta, che si era innamorata di lui, il nipote preferito di Don Fabrizio del Gattopardo rivolge le sue attenzioni verso Angelica. Il principe capisce subito le intenzioni, capisce che Angelica è un tipo di donna che può andare bene per uno come Tancredi, è bella, è ambiziosa, è disposta a farsi istruire da chi ne sa più di lei in società, e poi c'è l'enorme patrimonio del padre che può fare la differenza tra questo e le finanze disastrate di uno spiantato come Tancredi. Insomma, questo matrimonio, come dice il principe, non è la fine di niente, ma il principio di tutto. È una prassi che è stata messa in pratica molto spesso in quel periodo, cioè il ricco senza titoli nobiliari che si imparenta con il nobile che però ha bisogno di iniezioni di denaro liquido. Sentiamo dall'aristocratico intervistato da Gregoretti come funzionavano queste cose all'epoca, perché quello di Tancredi, come ho appena detto, non era un caso isolato. Quello che le ereditiere americane rappresentarono per le famiglie dell'aristocrazia in altre regioni, qui in Sicilia, questi nuovi baroni rappresentarono l'ereditiera americana, immisero nuovo denaro e nuovo sangue nell'aristocrazia locale. E intanto la storia, quella con la S maiuscola, va avanti. Arriva il momento del plebiscito, la scelta per essere annessi al Regno d'Italia con Vittorio Emanuele II come unico re d'Italia. Il principe va a votare anche lui, tutti si levano il cappello al suo cospetto, eppure possiamo già avvertire che la sua è una classe destinata a scomparire, soppiantata da uomini come Sedara, che nel frattempo ovviamente si è già trasformato in un fan convinto dei Savoia. E alla fine anche il principe vota sì all'annessione, perché in fondo i Savoia una monarchia sono, meglio loro dell'anarchia, anche se il Gattopardo sa bene che questo è solo il principio della fine. Sulle ali di carta. Stiamo raccontando un uomo complesso, un uomo in crisi, un uomo a cavallo di due epoche, è il rappresentante di una classe al tramonto che capisce la necessità del nuovo, ma che non può e non vuole uniformarsi a quel nuovo. Parliamo di Don Fabrizio Corbara, principe di Salina, il Gattopardo. Ma perché il Gattopardo? Intanto perché il Gattopardo è l'animale che campeggia nello stemma di famiglia, poi perché il principe viene da una classe di dominatori, di padroni delle sorti altrui. Eppure, nonostante la sua appartenenza a questa classe privilegiata, Don Fabrizio è considerato un uomo stravagante, il cui interessamento alla matematica era considerato quasi come una peccaminosa perversione. Insomma, erano anni in cui il nobile non doveva fare nulla per legittimare la sua condizione di nobile, e lui invece è un personaggio molto più complesso. abbiamo lasciato Don Fabrizio che accettava il risultato del plebiscito di annessione della Sicilia al Regno d'Italia, e non è l'ultima cosa che lui deve accettare. In una lettera che arriva da Tancredi, che è ancora in guerra, il nipote gli rivela la sua intenzione di sposare Angelica, la figlia del sindaco di Donna Fugata, il Calogero Sedara, insomma questo personaggio discutibile che poco ci piace. Chiede allo zio se può andare a domandare la mano in sua vece, e Don Fabrizio assolve anche questo compito, sottolineando a questo untuoso uomo che è Sedara la situazione economica del nipote, ma giustificandola nel migliore dei modi. Il risultato di tutti questi guai, di questi crepacuori, è Tancredi. Queste cose noi altri le sappiamo bene. È forse impossibile essere così distinto, sensibile, affascinante come Tancredi, senza che i suoi maggiori abbiano dilapidato una dozzina di patrimoni. Almeno così è in Sicilia. Ma tutte queste cose le so e molte altre. Ma l'amore, eccellenza, l'amore è tutto. Eh sì, perché la decadenza, se è vissuta da persone nobili, nobili d'animo e di modi, ha un fascino sottile anche per un arricchito come Don Calogero. Angelica è molto meno rozza del padre, perché è stata anche istruita diversamente, diventerà come la vuole Tancredi, espansiva e chiassosa solo per lui, mentre per tutti gli altri sarà solo la futura principessa di Falconeri, superiore a molti, pari a chiunque. E anche da questo punto di vista, insomma, i costumi cambiano, e il Gattopardo si lamentava del fatto che aveva avuto 7 figli e non aveva mai visto l'ombelico della moglie, e invece qui qualcosa anche da questo punto di vista comincia a evolversi. Intanto Tancredi torna a casa e non veste più la camicia rossa di Garibaldi, che dopo i fatti dell'Aspromonte viene considerato poco più che un ribelle quando fu ferito dall'esercito sabaudo che voleva impedire la sua marcia su Roma. Insomma, Garibaldi non serve più ai Savoia in quel momento. Lui, Tancredi, sta vestendo proprio la divisa Savoia, la divisa blu dell'esercito sabaudo, che entro pochi mesi diventerà l'esercito italiano. Insomma, anche lui dice, non si poteva restare con i garibaldini, quella gentaglia. E la trasformazione di Tancredi segue i suoi proponimenti: essere presente, essere sul carro del vincitore, aderire a ogni movimento per far sì che nulla cambi. Però l'Italia sta premendo alle porte della Sicilia. In quei giorni arriva a Donna Fugata il cavaliere Chevalier di Monterzuolo, che è un notabile piemontese incaricato di offrire al principe addirittura il titolo di senatore dello stato nascente, perché lo stato nascente, quello che era Torino e poi andrà a Roma, ha bisogno di qualche rappresentante locale importante. Però Don Fabrizio deve rifiutare, perché è legato a dei vincoli, diciamo, di decenza e di affetto nei confronti della monarchia. Ha cercato di spiegare a questo uno chevalier un po' allibito la natura profonda dei siciliani che riflette la sua. La mia è un'infelice generazione, a cavallo tra due mondi e a disagio in tutti e due. E per di più io sono completamente senza illusioni. Siamo vecchi, chevalier, molto vecchi. Sono almeno 25 secoli che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche eterogenee civiltà, tutte venute da fuori, nessuna fatta da noi, nessuna che sia germogliata qui. Da 2500 anni non siamo nient'altro che una colonia. Oh, non lo dico per lagnarmi, è colpa nostra. Ma siamo molto stanchi, svuotati, spenti. Il sonno, caro chevalier. Un lungo sonno, questo è ciò che i siciliani vogliono. Ed essi odieranno sempre tutti quelli che vorranno svegliarli, sia pure per portar loro i più meravigliose doni. E detto già noi, io dubito sinceramente che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel suo bagaglio. I siciliani vogliono che nessuno li svegli dal loro lungo sonno. Non saranno di certo i piemontesi a riuscirci. La Sicilia, secondo Don Fabrizio, è una signora centenaria trascinata in carrozzella all'Esposizione Universale di Londra, che non capisce nulla, alla quale non interessa nulla delle acciaierie di Sheffield o delle filande di Manchester, che vuole solo ritrovare il proprio dormiveglia fra i suoi cuscini sbavati. trovati e il suo orinale sotto al letto. E i fatti daranno ragione a lui, al principe Salina, perché da quel 1860 la Sicilia per molti anni rimarrà ancora come una terra a parte, lontana dal Piemonte e dal resto dell'Italia, un mondo a sé, da un certo punto di vista oppresso e sfruttato, con la connivenza delle classi politiche, a partire dai governi sabaudi che non fecero nulla per portare della giustizia nell'isola. E dopo il discorso con il messo dei Savoia, Chevalli, e il principe ha un guizzo veramente a sorpresa, cinico, fatalista, perché raccomanda al senato del nuovo regno Don Calogero Sedara, cioè l'arricchito, il plebeo che gli ha portato via il suo patrimonio, perché non ha prestigio ma ha potere. E di fronte alla sorpresa di Chevalli, che non riesce a comprendere come mai persone come il principe si rifiutino di fare qualcosa per migliorare il mondo e come mai i siciliani non vogliano migliorarsi, Don Fabrizio dà una sola laconica spiegazione: perché i siciliani si sentono dei, si credono perfetti. Noi fummo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene. E tutti quanti, gattopardi, leoni, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra. Credo di non aver capito bene. Come ha detto? Niente, niente. Scusi, come ha detto? Non ho sentito. Arriviamo al 1862, i Salina sono a Palermo per la stagione dei balli e il più importante è quello dato a Palazzo Ponteleone. È un ballo importante soprattutto per la famiglia Salina, perché Tancredi presenta Angelica al mondo che conta, a quelle 200 persone che fanno la buona società dell'isola. Nei saloni ci sono le risate, il tintinnare dei bicchieri, il fruscio delle crinoline, l'orchestra che inizia a suonare un valzer, e Angelica si avvicina a Don Fabrizio, gli chiede di ballare assieme questo valzer, vuole ringraziarlo. Sono tutti gentili con me e io sono felice, zia, tanto. Tancredi è proprio un amore e anche lei è un amore, lo sa. Meno male che Tancredi non sente quello che dice. Dico davvero, zio, so di doverle tutto, anche Tancredi è devo. Perché se lei non avesse voluto, certamente finiva che... Finiva che Tancredi ti avrebbe sposato lo stesso. Eri tutta a te sola. No, non è vero. Sì, è vero, Angelica. Nessun Tancredi avrebbe resistito alla tua bellezza. Ci fa quasi sfiorare questo valzer, ci fa sfiorare dal pensiero che Don Fabrizio sia anche innamorato di Angelica. Probabilmente è un amore sublimato, un amore per la giovinezza, per la bellezza, per il tempo andato, quindi è un amore struggente, insomma. In quel momento in realtà Don Fabrizio comincia a pensare all'idea della morte. Avverrà 20 anni dopo in una stanza d'albergo a Palermo, quindi lontano dai suoi possedimenti, al ritorno da un consulto medico che non gli lascia speranza. Seduto su una poltrona, sentiva che la vita usciva da lui a larghe ondate incalzanti, con un fragore spirituale paragonabile a quello della cascata del Reno. Era il mezzogiorno di un lunedì di fine luglio ed il mare di Palermo, compatto e inerte, si stendeva di fronte a lui, inverosimilmente immobile ed appiattito. Una morte che simboleggia la fine di un periodo, la fine di un approccio, la fine di una classe sociale, il cambiamento nel mondo e nella Sicilia, in quella Sicilia, con l'avvicendarsi di persone che fanno del denaro l'unica loro ragione di vita, gli arricchiti, e che hanno bisogno di imparare dai nobili delle buone maniere che i nobili possono insegnare loro, in attesa della disgregazione di tutti i loro privilegi e di tutti i loro patrimoni. Colpo d'ala del Gattopardo è stato quello di interpretare la storia, interpretare un cambiamento epocale, volando tra i privilegi, la consapevolezza del nuovo che arriva. Ognuno di noi può cercare di volare in alto e può rischiare di cadere come un falco, come un gabbiano o come un gattopardo. Se volete scrivete al falco e il gabbiano @radio24.it segnalandoci altre vite che volete che noi si racconti. Visitate la nostra pagina, il mio Facebook, il mio Twitter, i nostri social, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.